Noi siamo, noi intendo dire, noi archivio Crepax, e cioè i figli di Guido Crepax, io, mia sorella Caterina e Giacomo. Come si può vedere, cerchiamo di far conoscere degli aspetti del lavoro di nostro padre, Guido Crepax, che è noto soprattutto per i fumetti, ma in realtà ha fatto molto altro. In questo caso è proprio una cosa molto poco nota e curiosa, cioè lui praticamente da quando aveva 20 anni, quindi nel 1953, ha cominciato a lavorare come illustratore di copertine di dischi e ne ha fatte tantissime, ha fatto 300 copertine di dischi e quindi gran parte di questi lavori l'ha fatti prima di fare i fumetti e prima di diventare più famoso col lavoro dei fumetti. Però ecco, noi ci teniamo molto a far vedere queste cose che oltre che valide da un punto di vista grafico interessante, ci fa particolarmente piacere raccontare questi aspetti proprio perché quando tu se verrai avrete avuto modo di venire alla mostra, vi accorgete che tutto quello che è stato fatto prima dei fumetti, comprese le copertine dei dischi, in realtà poi sono preparatori di quello che è stato il suo lavoro come fumettista, come pure il lavoro come grafico pubblicitario che gli è venuto da queste copertine dei dischi, perché lui a un certo punto, qualche anno dopo, una copertina che porteremo, che è stata notata da dei grafici pubblicitari, e questo ha comportato che gli è stata, a 24 anni, quindi sempre molto giovane, gli è stata assegnata la campagna pubblicitaria per la benzina Shell. Quindi vabbè, erano anche un po' altri tempi rispetto a oggi, tu dalla voce sento che sei giovane, per cui cioè era un mondo più semplice, ecco, per certi versi. Quindi appunto ha avuto accesso a questo ulteriore lavoro e tutti questi lavori sono poi presenti in qualche modo anche nelle storie a fumetti, perché se guardi alla prima storia di Valentina ci sono delle citazioni musicali, lui disegna dei locali dove la gente suona il jazz, insomma ci sono un sacco di collegamenti tra queste cose, è come un po', se mi passi il termine, come se fossero dei mondi diversi ma comunicanti tra di loro. Tra le copertine che noi portiamo a Bologna ce n'è una particolare molto importante che è dei primi del 72, dove lui è la copertina del disco Nuda dei Garibaldi, che è un disco di progressive italiano, un gruppo genovese era, e lui per la copertina disegna una donna che era un suo personaggio nelle storie a fumetti, che si chiamava Bianca. E poi all'interno dell'album disegna dei fumetti dove i testi dei fumetti sono le parole delle canzoni. Quindi, come vedi, c'è un forte collegamento fra questi mondi che si influenzano tra di loro. Tutto questo sarà appunto visibile questo sabato 23 ottobre a Gallery 16 per la mostra Crepax a 33 giri, ma ci sarà anche tra l'altro una presentazione del vostro libro. Sì, esatto, è quello che per cui noi ci piace molto fare le mostre, raccontare queste storie, ma siamo anche particolarmente contenti quando riusciamo a fare un prodotto editoriale, perché appunto siamo un po' legati, diciamo, al vecchio mondo della carta. Quindi sì, Crepax a 33 giri è un libro che è edito da Volo Libero, che per la prima volta contiene tutto il catalogo di queste 300 copertine che lui ha fatto, più tutta una serie di testi che ho fatto soprattutto io, dove ho raccolto delle testimonianze, e quello penso che possa interessare anche un pubblico più giovane, cioè sul fatto dell'importanza della copertina disegnata. Cioè adesso che i vinili, no, stanno ritornando di moda, penso che possa essere evidente come a volte il disegno che tu vedi in copertina è quello che ti attira, anche se magari non sai esattamente qual è il contenuto musicale del disco. Adesso, una volta ti dirò, io ho comprato un sacco di dischi di cui magari non sapevo tantissimo, però la copertina mi incuriosiva. Ecco, adesso magari è un pochettino più difficile perché i dischi costano tanto, però insomma io penso che è sempre molto importante l'apporto visivo, del visual della copertina rispetto al disco. È un pochettino, se vuoi, come sono importanti i video che venga fuori un bel video che ti fa piacere di più una musica, no? Anche se in questo caso il disegno è statico, insomma. Non mancherà tra l'altro neanche la musica con un DJ set finale a concludere la serata. Esatto. Sì, quello ci tenevamo, siamo contenti che sia stato fatto perché in realtà devo dirti il nostro padre disegnava sempre a suon di musica. Lui diceva che la musica dà ritmo alla narrazione, al fumetto, cioè vedeva le due cose come strettamente collegate, quindi ci fa piacere che ci sia della musica dal vivo, perché a lui piaceva tantissimo, ne ascoltava tantissima ed era abbastanza onnivoro, cioè ascoltava un po' di tutto, ascoltava il jazz perché gli piaceva molto fin da giovane, amava tantissimo il jazz perché si guardava sempre un po' agli Stati Uniti come un modello, comunque una cosa affascinante. Poi ascoltava musica classica perché suo papà suonava il violoncello alla Scala e allora c'era un collegamento, diciamo, di famiglia, familiare. E poi, siccome ha avuto tre figli, che siamo noi tre, io, mio fratello e mia sorella, ha ascoltato molta musica anche diversa che gli portavamo noi, e quindi rock, cantautori, un po' di tutto, insomma, era, come ti dicevo, un po' onnivoro. Perfetto, Antonio, io ti ringrazio e ci vediamo tutti e tutte sabato 23 ottobre al Gallery 16 per vedere questa meravigliosa mostra. Grazie. Benissimo, molto volentieri, grazie a tutti.